tampoco es una ayuda, es una manera de solidarizar en la concreta, como decimos acá en Chile. Gracias a ustedes por hacer esto. Allora, io non ho avuto molto tempo di fare una introduzione, vorrei approfittare di farla con te. Cominciamo dall'inizio di questa grande ribellione di questi giorni, che ha una lunga storia indietro, no? Sì, si inizia con un nuovo alzamiento de los estudiantes en Santiago, particularmente un liceo muy emblemático que queda a 3 cuadras del Palacio de Gobierno, que sufre mucha represión por un montón de demandas, con encuentros de enfrentamientos con la policía, y en un momento determinado esta muchachada, estos muchachos, estos estudiantes comienzan a hacerse cargo un poco de rebelarse un poco en el metro de Santiago, no pagando, saltando los torniquetes, por el alza que había anunciado el gobierno en 30 pesos, que puede significar nada, pero sí es mucho para las familias pobres de este país. Allora, tutto ha cominciato perché un liceo, appunto, che sta molto vicino tra l'altro al Palazzo del Governo, ha cominciato ad avere una situazione di repressione molto forte. Ricordiamo che tra l'altro nel liceo di Santiago c'è tutta questa operazione Aula Sicura, quindi comunque le forze dell'ordine sono molto presenti nelle scuole in maniera fortemente repressiva, e questi studenti erano appunto in resistenza, in lotta per tutta una serie di richieste. Una delle forme che hanno trovato per lottare è stata quella di saltare i tornelli della metropolitana, tra l'altro tra le varie rivendicazioni anche per appunto combattere quella che era stato l'aumento a 30 pesos, che per una famiglia è moltissimo, del costo dei trasporti, appunto, e quindi loro hanno iniziato con questa diciamo pratica di saltare i tornelli. Eso se hizo viral un poco, no? Claro, entonces claro, ahí ya comenzó todo el mundo, comenzó a despertar este país que tuvo como una larga siesta de 30 años en este oasis del que habló el presidente hace muy poco, y que ese oasis finalmente no terminó ser otra cosa que un espejismo, porque en ese oasis solo unos poquitos pueden gozar del agua o de los beneficios que ese oasis, pero era un espejismo. Entonces se prendió la gente, la dueña de casa, el poblador, el trabajador, la juventud particularmente, a quien saludo, y ya esto dejó de ser un tema de un alza del valor del transporte subterráneo, del tren metropolitano, de 30 pesos. Era un asunto que nos involucraba a todos: la salud, la educación, las pensiones, los pueblos originarios, los recursos naturales. Dunque, chiaramente questa pratica è stata virale veramente in un attimo, in quello che sono state veramente pochissime ore è diventata la pratica, esplosa completamente. Quindi quella che era una presa a carico di una rivendicazione di questo liceo è diventata in un attimo non solo degli studenti, ma ha fatto svegliare un po' quello che ci dice era il popolo, che da 30 anni era più o meno addormentato e che invece ha visto in questa pratica rispecchiare la propria stanchezza, il proprio non farcela più, come si dice lì, star hartos di quello che era stato appunto le risorse. L'acqua qui appunto in Cile è una risorsa che è in mano di pochissime persone, di cui possono godere pochissime persone, è quasi praticamente tutta privatizzata. Quindi è stata una rivendicazione per i popoli originari, per la salute, per la sanità, appunto, per l'educazione, per tutti gli altri ambiti del paese. Quindi dalle donne di casa agli operai, adesso sappiamo anche nel porto di Santiago i portuali sono in sciopero, è stata una cosa che ha detto finalmente basta a quello che stava succedendo. Sí, y así que el pueblo se ha desatado y tampoco fue solo una cosa de estudiante. Ya veo que también hay portuarios que están haciendo paro, ¿no? Entonces eso lo que permite entender en el fondo que no es un tema de un alza del precio del transporte, sino que tiene que ver con cuestiones más de fondo, que esos 30 pesos, que es la moneda, son 30 años, son o desde el golpe acá. Y la reacción de un pueblo que está cansado es algo también que se esperaba, porque hasta hace un tiempo manifestarse, protestar o reclamar era una locura, era mal visto, era como raro, extraño. Entonces, cuando despierta, cuando se produce este despertar, la gente comienza también a comprender que no es solo un tema del precio del transporte público, sino que cuestiones más de fondo, las pensiones que reciben. Imagínate tú, un pensionado, un profesor que trabajó 20, 25 años, hoy recibe como pensión, por ponerte un ejemplo, 74 euros. ¿Qué envidia con eso? Sí, si lo dicen en euros nos damos mucha cuenta. mucho más que si lo dicen pesos. Sì, quindi appunto la gente ha capito che questi 30 pesos non erano i 30 pesos, ma erano 30 anni in cui appunto il popolo era stanco, non ne poteva più, e quindi questa metafora dei 30 pesos come 30 anni di silenzio hanno fatto sì che appunto un popolo completamente stanco di quello che era stato prodotto dalla dittatura e che si era vissuto in 30 anni, dove anche manifestare era quasi inimmaginabile, impensabile, la repressione era continuamente pesantissima, quindi anche manifestare era percepito come quasi impossibile, finalmente invece è esplosa. Per esempio ci fa l'esempio di un pensionato che ha lavorato qui 20 anni, in un mese riceve quello che in euro sono 74 euro. Quindi appunto dai pensionati alle famiglie, qualsiasi settore della società. E empezó todo, sí, ok, dale. Sí, piensa tú, hace un par de semanas muy cerquita Ecuador, nuestros hermanos del Ecuador también se alzaron, porque por lo que partió un tema de una medida impopular por el Fondo Monetario Internacional, pero el trasfondo de eso era un montón de cosas: los pueblos originarios, el hambre, los sueldos de miseria. Entonces es como la característica de América Latina, y este país, y llama un poco la atención en Chile, porque ha sido como el laboratorio de todo el experimento neoliberal desde el término de los gobiernos dictatoriales, ya, que se convirtieron en esta suerte de comillas democracia. Entonces lo de hoy no es de hoy, no es de un alza, es de siempre, porque esto no es una democracia, esto lo vistieron de democracia. Sì, claro, eso lo vamos a explicar un poco, ¿no? Justamente lui dice appena due settimane prima anche il popolo dell'Ecuador era esploso per appunto la tassa sulla gasolina, sulla benzina, e poi quella lotta è diventata appunto la lotta dei popoli originari, la lotta appunto della fame, la lotta di chi non ce la fa più a arrivare a agguantare l'hambre, appunto a soffrire la fame. Quindi come ci diceva, questi sono popoli che hanno vissuto delle dittature che adesso sono però state democraticizzate. Questa cosa l'abbiamo raccontata tante volte. Vamos despacito en eso para dejar de entender, porque yo no sé si acá todos tienen claro, ¿no? Lo que ha pasado en Chile es que la dictadura, diciamo, si hablo italiano me entiendes, ¿no? Sì, ho capito. Io credo che raccontiamo un po' la storia della dittatura, che qui si conosce molto bene, ma no come repressiva, come livello repressivo, come sostegno degli Stati Uniti dal punto di vista politico. Poi dal punto di vista economico la dittatura cilena ha avuto una sorta di fecia di vencimento, no? Di data di scadenza, non è una dittatura che è stata fatta cadere. Questo ha fatto sì che la dittatura, prima di cadere, potesse effettuare tutte le riforme che voleva, e quindi privatizzare praticamente in Cile quasi tutto. Stiamo parlando dell'acqua, parliamo dell'educazione. Uno studente cileno dopo la sua laurea lavora praticamente tutta la vita per pagarsi gli studi che ha già fatto, la riforma delle università, delle scuole. E quindi quella che si vive in Cile è una situazione molto diversa da quella che possiamo pensare noi quando pensiamo alla democrazia cilena. I politici, le classi politiche tutte indiscriminatamente che sono passate nei governi cileni non hanno fatto altro che sostenere quella che poi era stata anche una dittatura che aveva posto un'economia in una maniera molto forte, molto determinata ormai, no? Quindi si parla di una dittatura democraticizzata, quella di Piñera in particolare, credo. Sí, mira, yo resalto un poco lo que dices tú respecto de la clase política chilena. Y allí la responsabilidad, la complicidad con... ¿Te sentí? Sí, sí, te siento. Sí. La complicidad con todo, con el estado de cosas, también compromete a la socialdemocracia, a sectores importantes de la izquierda tradicional que, de partida, comenzaron por hipotecar los intereses del pueblo cuando Pinochet incluso estaba a punto de caer, y luego se acomodaron en esta historia, acomodaron sus puestecitos, y hoy incluso ha quedado de manifiesto que en medio de este estallido social, esa socialdemocracia tradicional sigue pidiendo un diálogo que es inexistente, con un presidente que manda a los militares a la calle, y además solo hace saludo a la bandera, porque no hay una conexión con los intereses del pueblo. Ellos simplemente buscaron los votos, como lo hace la derecha, la izquierda tradicional, y allí se acomodan y reparten entre ellos la torta. Beh sì, insomma, io appunto parlavo un po' di tutte le classi politiche e giustamente lui dice, beh, io se posso aggiungere effettivamente guardo in maniera più responsabile a una certa socialdemocrazia, a una certa sinistra, a certi partiti comunisti del Cile che prima hanno un po' ipotecato le richieste del popolo quando c'è stato appunto il discorso di far cadere la dittatura. Di come sarebbe finito il trattamento con Pinochet e poi hanno continuato comunque a stare al governo per continuare a cercare i voti e non veramente appunto rispondere a quello che si chiedeva. Sì, l'abbiamo parlato tante volte anche parlando delle ultime presidenze del Cile appunto. Tornando un po' alla cronica dello che sta passando, después de unos días de eso enfrentamiento muy fuerte en la calle de todos los sectores de la sociedad, al final el presidente metió el toque de queda y ha cambiado mucho la cuestión represiva, que ahora me parece de verdad muy pesada. Hay muchos muertos, no se entiende, no se sabe mucho, no hay mucha información alrededor. ¿Nos puede contar un poco cómo fue el levantamiento de nivel, al nivel represivo, ¿no? Después que entraron los militares en las ciudades y el ha llamado al toque de queda, porque dopo qualche giorno appunto che c'è stato di tanti scontri in le strade, metro a fuoco, le stazioni della metro scavalcate, i tornelli distrutti, il presidente ha dichiarato il coprifuoco, che tra l'altro oggi credo che scatterà anche prima alle 7 di sera, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha fatto entrare l'esercito nelle strade, che tuttora sta reprimendo in maniera assolutamente disconnessa e pesantissima. Però prima ha mangiato la pizza con il nipote. Ecco. prima sì, no? Sì, declara, da esta respuesta que en el fondo acá fue leída como, incluso de su propio sector político fue leída como decimos acá apagar el fuego con benzina, y la respuesta de la gente fue salir a las calles y no importó el toque de queda, pero claramente, y aquí después un punto que podríamos abordar respecto a cómo han hecho el tratamiento de los medios de comunicación, la prensa burguesa que llamamos acá, alineados con el poder. La gente salió a la calle y no importó ese toque de queda, y naturalmente la puesta en escena de los militares en la calle, que podría sonar un poco traumática para nuestro pueblo porque no se hacía desde que Pinochet dejó el poder, pese a que parecía como traumática, la gente siguió en las calles, en los territorios populares, en el centro de Santiago, y se fue masificando al resto de la ciudad. Y eso dio cuenta de un presidente, un inepto, que por lo menos no es un político, un empresario, que no leyó bien la calle, y ya después la cosa se le fue de las manos y dejó naturalmente a cargo al brazo armado de la derecha y de la burguesía, que son los militares, históricamente no solo en Chile, también en Argentina, también en toda América Latina, y no siento que sea muy distinto en Europa. Sì, tristemente, así es. Dunque, chiaramente appunto il presidente dopo tutto questo ha chiamato appunto il toque de queda, che sarebbe il coprifuoco, e ha chiamato, sì, un estado de emergencia, me dices que es la primera vez que se vede la dittatura, no? Sì, un estado de emergencia, y que luego se transforma en toque de queda, que lo particulariza por regiones, primero Santiago, luego se extiende Valparaíso, luego Concepción, que son como las ciudades más importantes de Chile, pero esto comienza ya, la gente comienza en otras regiones, en el norte de Chile, en el sur de Chile, comienza a solidarizarse con lo que está ocurriendo en Santiago, porque se entiende que, porque claro, claramente una ciudad del sur, Punta Arenas por decirte, no hay metro, pero la gente entiende que allá la vida también sigue siendo tan cara como lo es en Santiago, porque también hay pobres, porque los sueldos son indignos, porque las pensiones también afectan, porque los 74 euros que tú recibes como pensión por haber sido profesor 20 años no tiene que ver con que hayas vivido en Punta Arenas o en el centro de Santiago de Chile. Certo. Vabbè, quindi chiaramente appunto con il coprifuoco appunto il presidente ha pensato di calmare la situazione, ha invece solo gettato benzina sul fuoco, perché le persone hanno cominciato a scendere in strada esattamente all'orario in cui iniziava il coprifuoco. E una cosa molto spaventosa che si è vista e che non si vedeva dalla dittatura, e che è una cosa che di solito risvegliava un po' un trauma nella popolazione, che era proprio i plotoni di militari che camminano per strada, i carri armati, le camionette piene di militari, i plotoni appunto che strillano, entrano nelle case, insomma, se vedete ormai l'informazione fa vedere tante cose e piano piano anche altre città, questo è successo a Concezione, a Valparaíso, a Santiago chiaramente, ma si è viralizzato non solo nelle città del nord ma anche città del sud, città più piccole dove per esempio non c'è la metro, come faceva l'esempio di Punta Arena, nonostante non ci sia la metropolitana hanno solidarizzato con questa città perché comunque sono persone che prendono 74 euro di pensione dopo 20 anni che lavorano e che non fa differenza allo Stato se hanno vissuto a Punta Arena o nel centro di Santiago del Cile, e che la fame è la stessa a Santiago del Cile e Punta Arena, e quindi tantissime città, in nome di quello che sta succedendo appunto, stanche delle stesse identiche cose, stanno scendendo in piazza a solidarizzare. Chiaramente rispetto a quello che è la gestione delle forze armate, come vuole la storia, appunto lui ci parla dell'Argentina ma tristemente anche in Italia la gestione degli eserciti e delle forze armate è sempre in mano dei ministri che comunque hanno a che fare delle grosse famiglie di destra e che hanno una storia sociopolitica sempre legata alla destra del paese. Sì, eso haberlo messo mucha impresión, sí. Eso ha traído las consecuencias que son propias de los estallidos sociales, que son lamentables, que son la muerte de gente que también sale a la calle, que sale a expresarse su descontento, su rabia, y sale a defender fundamentalmente su dignidad. Y claramente los muertos los pone siempre el pueblo, por los saqueos de sus mercados, por las recuperaciones, por la lógica insurreccional finalmente de un pueblo que se cansa. Y allí comienza otra complicidad que tiene que ver con cómo actúan los medios de comunicación, que están alineados con la versión oficial. De hecho, recién hoy día un medio comunicacional tradicional, burgués derechamente, publica los 8 o 10 videos Ripresa que distintos lugares donde durante la madrugada de este lunes da cuenta de represión, de disparos de militares, policías de civil, policía uniformado contra la población en territorios populares que se están manifestando, otros que simplemente van caminando porque no respetaron el toque de queda, etcétera. Entonces la cosa va en aumento, y cuando esperaban que iban a calmar eso, hoy día ya a esta hora en distintos puntos de Santiago y distintas ciudades del país ya la gente se está manifestando de vuelta en la calle. ¿A qué hora va a empezar el toque de queda? Hoy en Santiago no está confirmada la hora, pero sí en Valparaíso y en Concepción a partir de las 20 horas, de las 8 de la noche de Chile, sí. Madrugada de ustedes. Sí. Bueno, chiaramente si sono viste tantissime immagini, tantissimi video di gente che anche con rabbia o anche espressando molto degnamente, con tranquillamente per strada la propria rabbia viene repressa, e tra l'altro poi c'è il gioco sporco che fanno i media, chiaramente i media mainstream borghesi, che per esempio giusto poco fa avevano fatto vedere questi 8 video dove si vede all'alba le forze dell'ordine, si sente che sparano perché ci sono persone in giro per le strade, anche in piccoli centri, che non hanno rispettato, e appunto commentano che non è stato rispettato il coprifuoco. Con esto también, en este caso, digamos, los medios allá no ayudan mucho, pero acá han salido muchos videos donde se ven los saqueos de los mismos carabineros, se ve la represión, es muy loca, muy justa, muy alucinante de gente mayor, los militares entrando en las casas, ¿no? Creo que esas son escenas que ahí pesan mucho después de un país que ha tenido una dictadura como la suya, pero acá se ve mucho, se está comentando mucho eso. Sí, han jugado también un poco con eso, a través de las redes sociales fundamentalmente, porque todavía no nos cortan la internet, han jugado un poco con estas imágenes de elementos provocadores, se dice por ejemplo que la gente que ha muerto en incendios de tiendas, de bodegas con saqueos, es como para encubrir, todo eso hay que confirmarlo, pero efectivamente ha habido policías sacando carne, por ejemplo, televisores, para jugar esto un poco de esta idea de la doctrina del shock, para atemorizar a la gente, para infundar el temor, para que mi vecino piense que yo voy a robarle su casa, ¿ya? De los mercados libres, etcétera. Han jugado un poco a eso, pero debo decir, en honor a la dignidad de un pueblo, claro, que no hay miedo, no hay llegar y creer eso que nos muestran, esa mentira, que, pero tampoco es una sorpresa que la prensa y los medios de comunicación alineados, burgueses y todo eso, no es ninguna sorpresa que hagan lo que hagan, porque para eso están, digamos. Por eso que es importante también lo que hacen ustedes como Radio Onda Rosa, lo que hacen otros compañeros en distintas partes del país y también en distintas partes del mundo. Sì, chiaramente lui diceva che quello che fa la stampa borghese, insomma, non ci meraviglia, lo sappiamo che è molto importante quello che invece fanno altri mezzi indipendenti, quello che facciamo noi anche in altre parti del mondo, perché appunto chiaramente la situazione, se sono stati visti, ci sono video di appunto di poliziotti che entrano nei negozi, portano via la carne, si portano via i televisori, quella che è stata la dottrina dello shock in Cile, cioè questa definizione storica proprio è stata formata su quella che è stata la dottrina della paura in Cile, per cui vengono riproposte delle scene molto simili a quelle di dittature su un popolo che è assolutamente ancora un trauma enorme rispetto a questo, perché non ha veramente poi mai vissuto un momento di democrazia, per quanto queste democrazie occidentali ci possano piacere. Sí, yo no sé, yo te pido de agregar todo lo que quieras para que nos enteremos más de la situación y nada, y qué crees que vaya a pasar en los próximos días, cómo crees que sigará eso. Mira, muy personalmente me hacía la pregunta ayer, después de esto, ¿qué? Soy de los que piensa, lo personal, que rompamos todo, ¿no? Sí, que se vayan todos, una nueva Argentina del 2001, un Ecuador, una América Latina que se prende y que ya deja de ser un rebaño de borregos que sigue a un líder, ni siquiera líderes, sino que a una casta de mierda que no ha hecho otra cosa que enriquecerse a costa del trabajo de los abuelos, de los niños, de vender la educación, de vender la salud, de una clase política traicionera que se ha hecho cómplice, que no se hace cargo, y seguir adelante. Yo no estoy diciendo que esto sea el fin. Es como parte del inicio, por ahí alguien dijo el iceberg de esta historia. Lo que sí sé es que tenemos una historia, hay una nueva generación cuyos padres somos nosotros, que el miedo lo dejamos atrás. Los militares pueden tener sus armas, su poderío, su fascismo en la pena, pero no hay miedo a eso. Y te aseguro que, o lo importante es que esto trascienda o pase más allá, como decíamos al principio, de 30 pesos de las pensiones, de la privatización de la salud, de la educación o del robo de los recursos naturales. Entonces, como un desencanto dormido que ya no se vuelve a dormir, y que al oasis, el que habló el inquilino de La Moneda, realmente va a quedar en claro que es un espejismo, y que esta gente que está en las calles, que como digo, no tiene miedo, pueda seguir adelante para hacer valer lo que corresponde, vivir como un ser humano, vivir en igualdad, etcétera. Chiaramente io gli ho chiesto di aggiungere quello che vuole, di aiutarci a capire di cosa pensa che succederà nei prossimi giorni. Allora, sicuramente crede che questa non è la punta di un iceberg, questo non è il picco di quello che accadrà, che le strade non si svuotino, perché se ne devono andare tutti, se ne deve andare via una classe politica che ha tradito un popolo, che ha tradito quello che è stato il lavoro dei padri e di nonni e di nonne, e che questo sicuramente non è il fine per cui si è scesi in piazza. Quello che sicuramente sa è che questi giovani, che sono appunto i figli della sua generazione, quelli che comunque hanno vissuto la dittatura ma hanno messo la paura da parte, che hanno scelto di tornare a affrontare i militari, hanno scelto di mettere via la paura e invece scendere in piazza ad affrontare coloro che li hanno torturati e repressi, ma soprattutto che l'importante deve essere che si vada appunto un passo oltre questi 30 pesos e che il valore sia esattamente quello che è stato fino adesso, quindi di richiedere che ci sia una dignità per le persone, che non ci debba essere la fame, che non ci sia più il furto al popolo di quelle che sono le risorse naturali, di quello che sono ciò che si è guadagnato col lavoro di una vita, e quindi la dignità delle persone, e quindi che questo sogno che sembrava addormentato, quest'oasi in cui si sembrava di stare, che finalmente invece è tornata nella realtà, veramente si mantenga finché non si raggiunga una dignità di vita e un'uguaglianza anche in questo, lui lo chiama specismo, inteso anche come rispetto a tutte le rivendicazioni indigene che ci sono state. Io ti agradezco muchísimo y creo que seguiremos llamándote en los próximos días para seguir informando, porque aunque aquí los medios pues sí llega mucha información, pero no siempre es fácil leer lo que se mueve en la política, que son los pasajes un poco más difíciles de leer. No, gracias a ustedes por estar atentos, por solidarizar. Saludo a todos los compañeros allí, a Roma, a Milano, Italia. Y solo una última cosa, me gustaría, sí, cómo no, con lo que a quieras. Propósito de lo que significa la juventud que está en las calles en Chile, que siempre ha estado en Chile, saludar particularmente, de manera muy particular, a la familia de Stefano Cuti, a la mamá de Carlos Giuliani, a la familia de Dax, porque ellos también simbolizan un poco la solidaridad que el pueblo italiano siempre ha tenido con nuestro pueblo. Y nada, estaré agradecido siempre a usted, de Radio Una Rosa, de todos los compañeros allí, de toda la gente amiga. Vamos a estar aquí atento a ustedes también, a recibir vuestro cariño y nada, saludarles. Ya, te mando un abrazo gigante, acá estamos, lo que sea, me escribe, acá abrimos los micrófonos y ya, ¿ok? Chao. De verdad, muchas gracias. Gracias, Marcel. Chao. Chao. Appunto, rispetto alla gioventù di cui parlava, voleva, insomma, lui conosce l'Italia, qualche anno fa è passato già per questa radio, allora voleva salutare anche la famiglia di Stefano Cucchi, di Carlo Giuliani, di Dax, di tutti questi compagni e compagne, di un popolo che sempre gli ha mandato una grossa vicinanza al popolo cileno, e continuano a ricevere il nostro affetto e ci vogliono mandare questo saluto. Io non so se voglio. Ciao a tutti e tutte, io volevo aggiungere qualche cosa. Appunto, diceva giustamente la compagna che insomma una parte del popolo italiano, ovviamente chi lotta, insomma, ha provato negli anni a costruire una vicinanza con tante popolazioni in giro per il mondo, con la popolazione cilena. Poi abbiamo visto ad esempio in queste settimane, in questi giorni, purtroppo in diverse parti del mondo comunque esplodere dei conflitti, questioni insomma internazionali o anche questioni locali, dove appunto le persone si ribellano di fronte a condizioni sociali e economiche inaccettabili. Abbiamo sicuramente parlato più volte anche da questi microfoni dei rapporti dell'Italia ad esempio con la Turchia, delle armi che vendiamo alla Turchia ad esempio. Abbiamo insomma degli interessi anche ad esempio delle aziende italiane anche in Cile. Volevo citare rapidamente insomma gli interessi che ha Enel in Cile. Abbiamo visto questi giorni anche il palazzo dell'Enel dato alle fiamme durante le proteste, insomma. Quando chiedevo spiegazioni a qualche compagno, insomma, che ne conosce, ne sa di più, dice insomma là è il referente anche banalmente delle bollette che si trova la gente a casa, e appunto Enel gestisce più della metà dell'energia che c'è in Cile. Ci sono dei progetti anche molto, molto grandi che ha l'Enel in Cile, che racconta insomma anche se uno va a vedere tramite i propri mezzi stampa come appunto dei grandi punti di avanzamento e di miglioramento delle vite delle persone, dei cileni, quando noi appunto poi sappiamo perché proviamo a dare invece voce a una parte di quella popolazione, a chi lotta, a chi anche magari vive determinati territori dove poi l'Enel va a provare a costruire le centrali, o ad esempio nel caso particolare dei pannelli solari, questione che insomma sicuramente già è attuale, ma che poi con tutto questo dibattito sul green sul riscaldamento globale verrà riproposto parecchio in questi anni. Appunto, quindi le fonti di energia rinnovabili, Enel da quello che uno legge, va lì, insomma, ad investire sulle energie rinnovabili. C'è questo mega distesa di pannelli solari nel deserto di Atacama, che è la più grande del Cile e che, insomma, fornisce tantissima energia. O da un altro lato, Enel in Cile gestisce i bus elettrici. Si legge appunto dai siti di Enel che appunto si rivendicano appunto questa grande efficienza del trasporto elettrico in Cile. Questo, insomma, poi se andiamo a conoscere meglio queste storie, sono storie dove comunque si parte sempre da un'espropriazione delle terre dove vivono spesso anche popolazioni molto antiche che insomma si trovano espropriate del proprio territorio, delle risorse, e dove vengono portati questi programmi energetici che sono dei semplici investimenti economici per queste aziende, e ormai da tanti anni hanno preso il volto del green, del rinnovabile. Insomma, questo è pure per da un lato contestualizzare sempre come purtroppo poi queste questioni che succedono anche dall'altra parte del mondo in realtà hanno delle relazioni abbastanza strette ormai in un mondo totalmente globalizzato con anche le nostre latitudini. Vedi ad esempio il palazzo più grande che prende fuoco durante le proteste è dell'Enel. Magari può sembrare assurdo per un italiano che vede, ma poi uno invece Enel c'ha una proprio un'azienda dell'energia che si chiama Enel Cile, con tanto di amministratore delegato che è italiano, con tanto di grandi investimenti e con tanto appunto proprio del ruolo fondamentale nell'approvvigionamento energetico di quel paese, quindi appunto anche poi con un peso sulle tasche dei cileni, e quindi niente, insomma, per ricordarci sempre che queste questioni, se non ci bastassero tutte le ragioni che venivano dette prima, ci riguardano da vicino, e spesso abbiamo anche dei modi dalle nostre latitudini per esprimere solidarietà anche attiva, vedi ad esempio appunto aziende che hanno interessi in questi paesi che però sono qua in Italia. Va bene, io penso che ne continueremo a parlare, giovedì la schiena del sole non ci sarà, però insomma non è che, insomma, questo non vuol dire niente in merito, poi torneremo. Comunque appunto io credo che sia importante non solo per scoprire questo tipo di cose, ma anche perché appunto, come avete capito, poi le grandi multinazionali che fanno gli accordi con questi governi, poi diciamo sempre qua poi è il paese che se magna, questa è un po' la sostanza, ecco. E quindi buon mezz'ora e buon proseguimento. Va bene, dai, io direi mettiamo uno stacco musicale e poi continuiamo con la trasmissione. Allora, questa è la canzone di Anna Tijoux che ha fatto ieri, mitica, Caserolazo, che è appunto un'altra delle pratiche che si usano, cioè quella di scendere con un mestolo, una pentola e fare una caciara del Cristo per strada. En 200 metros gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los packs. Caserolazo, caserolazo, caserolazo, casi, caserolazo, caserolazo, caserolazo, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Caserolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Camilo Catrillán, sí. Macarena Valdés, sí. Noma FP, sí. Aguante estudiante. Cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Someone told me yesterday. un segnale che disturba. Disturba. Radio Onda Rossa. Primo di la viola rossa, primo, la tua radio che a te ti dà la scossa. Sobravi, bravissimi, manda dai soldi perché c'è bisogno di quattrini, sì sì sì, manda, dai dai dai dai dai dai. Onda rossa ha bisogno di te, manda dai soldi dal tuo banco, ma molti molti soldi. Energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere. Ehi, siete non pensiate a voi, potete fermare tutto questo. La viola rossa, primo, la tua radio che a te ti dà la scossa. Sobravi, bravissimi, manda dai soldi perché c'è bisogno di quattrini, sì sì sì, manda, dai dai dai dai dai dai. Onda rossa ha bisogno di te, manda dai soldi dal tuo banco, ma molti molti soldi.

sulle note dei Kraftwerk, sfumiamo e andiamo a concludere questo spazio. Abbiamo parlato di Cile, abbiamo parlato di Libano, abbiamo ascoltato un po' di musica e adesso ci avviamo alla conclusione. Vi ricordiamo degli appuntamenti che per noi sono significativi nei prossimi giorni. In particolare domenica 27 ottobre ci sarà una giornata per la difesa del Casale Alba 2, alle ore 15 ci sarà un'assemblea pubblica contro lo sgombero del Casale Alba 2, appunto difendiamo Aguzzano e i suoi casali. E vabbè, insomma, l'indirizzo di Casale Alba 2 lo trovate su internet, comunque via Paterno di Sesta.